Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentrovati, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma che si fa ai fatti vostri e cerca per come può di dare una mano nella vita di tutti i giorni, soprattutto cercando di alleggerire i problemi di lavoro se ci sono. E questa domenica parliamo di un aspetto particolare del nostro modo di lavorare. Parliamo della incapacità di autopromuoversi o semplicemente di comunicare quel che si è da parte delle donne. E di questo voglio parlare con l'agente provocatore di questa domenica. Benvenuto a Nessuna è perfetta, a Fabio Martini, grande firma della Stampa, notista politico del quotidiano diretto da Maurizio Molinari e autore di un saggio di grande successo pubblicato di recente da Marsilio, L'Italia immaginaria della propaganda da Mussolini a Grillo. La comunicazione politica davvero per Fabio Martini non ha segreti, no? Mi chiedo qual è, diciamo, l'aspetto che la politica ha mutuato di più dal marketing, dalla vendita dei prodotti. Certo, ma insomma i leader politici, come dire, a tutte le latitudini hanno copiato alcune fondamentali tecniche della pubblicità, con una sola differenza fondamentale: lo spot commerciale è un prodotto preparato, lavorato, limato in laboratorio, poi una volta confezionato va in onda senza interagire. Il politico può studiare tutti i trucchi, tutti i messaggi giusti, ma deve poi a un certo punto interagire con un'opinione pubblica, con un pubblico, e quindi l'effetto spesso non è quello desiderato. Possiamo fare un esempio di comunicazione di un prodotto politico che ha ottenuto l'effetto inverso rispetto a quello che sperava di ottenere? Certo. Ma possiamo, come dire, attingere a un periodo recente, ad esempio il governo che ci ha preceduto, quello guidato da Matteo Renzi, aveva prodotto una riforma costituzionale significativa, ovviamente controversa, e però è stata veicolata con un eccesso di pubblicità, per usare il termine. E questo eccesso ha provocato probabilmente una reazione uguale e contraria. C'è stato un'overdose di pubblicità, e perché il segreto della pubblicità, quella commerciale, è sapere, come dire, pubblicizzare appunto il prodotto in sé e farlo con le giuste suggestioni. Quando questo equilibrio si rompe, anche il messaggio politico ne risente. Nel campo politico non c'è in questo momento una figura forte, femminile, che prevalga sulle altre e che si faccia notare per una sua comunicazione particolarmente efficace. Ci sono invece nel passato degli esempi di donne con un ruolo politico preminente che sono state inizialmente valutate con, per ragioni anche politiche, anche diciamo di trame politiche, sono state ipervalutate e poi, proprio per errori anche di comunicazione, sono finite nel dimenticatoio. Cito Irene Pivetti, che aveva da presidente della Camera praticamente un consenso unanime di, quantomeno dei media mainstream, e che poi invece questo consenso non ha saputo utilizzarlo. Mi chiedo, c'è qualcosa che blocca le donne in politica nella loro comunicazione? Non siamo brave quando entriamo in politica, o in generale non siamo brave, questa è un po' la tesi di questa puntata, nell'autopromozione. Cos'è che ci porta a non funzionare spesso? No, no, la premessa è molto giusta, molto oggettiva, ma purtroppo le donne non comunicano molto perché sono anche poche a far politica ad alto livello. Ora c'è stato un po' di recupero nei ranghi ministeriali, anche in qualche piccolo partito, ma si può azzardare una prima risposta: quelle poche che comunicano riproducono a volte stereotipi precedenti, quindi tipicamente maschili, senza provare ad imporre o a suggerire uno specifico femminile. Insomma, uno può richiamare. Beh, la presidente Boldrini sullo specifico femminile insiste molto, al punto che viene spesso in maniera esagerata attaccata dai social media, no? Sì, uno specifico femminile indubbiamente sì, certo, anche diciamo un approccio anche di una parte politica, questo a dispetto della carica istituzionale che ricopre. Ma insomma, per restare diciamo all'attualità stretta, noi abbiamo visto l'evoluzione di un personaggio importante nella politica italiana, che è la ministra Maria Elena Boschi, che per un tratto ha, come dire, espresso in modo nitido, pulito, diciamo, il messaggio del governo, senza poi a un certo punto è sopravvenuto un eccesso di così forse di sicumera, e questo ha nociuto al messaggio, e alla fine lei ha dovuto ripiegare, tra virgolette, ci mancherebbe, su Instagram, esatto, anche su delle prove diciamo di tipo diverso da quello politico. Ecco, questo è un tipico esempio. All'inizio era abbastanza spontanea nel proporre la propria immagine, anche abbastanza fresca, poi è intervenuto un messaggio più generale di autopromozione che riguardava tutto il governo, che è stato il problema di quel governo: noi siamo i più bravi, gli altri sono tutti gufi, e ne ha risentito anche, e quindi lei ha seguito un po' gli stereotipi. Quindi c'è uno specifico femminile in questo campo? Ci sarà? Ci potrà essere? Beh, questo è un punto interrogativo. Nella ricerca che hai condotto, Fabio Martini, per il tuo libro L'Italia immaginaria della propaganda, da Mussolini a Grillo, quindi un ampio spettro di casi che hai esaminato, qual è quello che ti sembra un caso di scuola, il più bravo? Quello che in questa puntata dovremmo un po' studiare tutti, visto che ci stiamo dedicando appunto a tutti gli errori di comunicazione che si possono fare quando si cerca di comunicare se stessi. E qui è il punto, perché oramai comunicazione è sinonimo di trucco, di imbroglio. In realtà non sempre è così. Saper comunicare, cioè comunicare, è saper si spiegare, farsi capire, ecco, meglio. Dopodiché ognuno lo interpreta a modo suo, e quindi ci mette dentro il trucco, la suggestione, il messaggio subliminale. Adesso non vorrei apparire troppo controcorrente, ma sicuramente il personaggio che nella storia italiana ha prodotto più archetipi, più esempi poi seguiti, è stato proprio Mussolini, che non è stato assolutamente rivoluzionario in campo politico, ma lo è stato nel campo della comunicazione. Lui aveva alcuni mass media che erano ancora di pochissimi, la radio era ascoltata da poche decine di migliaia di italiani, il cinema si andava poco e i giornali erano acquistati non da molti, eppure seppe e manipolare e organizzare delle tecniche che poi sono state rivedute e corrette, sono state recuperate anche dai leader democratici. E Mussolini era un giornalista, ricordiamolo, possiamo dire che è stato il giornalista con maggior successo politico della storia di questo paese, perché poi tanti giornalisti hanno tentato la via della politica, non sempre con successo. Beh, mi sembra una definizione molto brillante, molto efficace e anche vera, e quindi ecco, quando la comunicazione, il prodotto comunicato, come dire, corrisponde anche a verità, la comunicazione è più efficace. Quando sovrabbonda, quando è eccessiva nell'autopromozione o nella promozione del prodotto, a volte si crea un cortocircuito. In conclusione, Fabio Martini, nel tuo libro L'Italia immaginaria della propaganda, da Mussolini a Grillo, c'è una figura femminile che ti piace ricordare per chi ci ascolta? Questa è una trasmissione che pensa soprattutto alle donne e cerca di fornire strumenti per come dire, vivere meglio anche in chiave professionale. È curioso come appunto questo libro, che racconta come i politici, i governanti abbiano cercato di conquistare l'immaginario degli italiani attraverso la televisione, il cinema, la radio. Ebbene, i protagonisti, quelli che hanno cercato di manipolare, di truccare oppure di comunicare bene, sono in realtà tutti maschi o diciamo meglio uomini, e come dire, le donne hanno sempre dovuto come dire, passivamente subire questo tipo di irradiazione di messaggi. Evidentemente dei segnali ci dicono che invece ora saranno le donne a comunicare bene. Anche, per ora leggendo il tuo libro, perché può essere un utile strumento per evitare errori. Grazie a Fabio Martini e buona domenica. A voi. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta... Nessuna è perfetta. Allora, bentornati a Nessuna è perfetta. Lo sapete, questo è il momento della nostra Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica, Michela Di Biase, capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio. Grazie, ben trovati. Michela, quando si parla di incapacità delle donne ad autopromuoversi, si pensa spesso alle donne in politica. Lei è titolare di una posizione di visibilità perché è capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio ed è all'opposizione del Movimento 5 Stelle, quindi in una posizione, diciamo, privilegiata per ottenere visibilità. Quali difficoltà incontra? E quanto pensa che l'essere eventualmente una capogruppo donna le abbia dato meno spazio rispetto al fatto di poter essere un capogruppo uomo? Allora, sull'incapacità delle donne a promuoversi, non penso che sia una cosa che riguarda strettamente le donne. Sarebbe ingiusto affermare questo, non è un problema che riguarda le donne, ma è tutto un insieme di questioni che purtroppo ineriscono la nostra società. Quindi semmai dovremmo chiedere per quale motivo le donne hanno più difficoltà ad entrare in politica di quanto non abbiano i loro colleghi maschi. Sul mio ruolo in Assemblea Capitolina non è stato scontato affatto, perché essendo e partecipando a un'elezione amministrativa, per ottenere questo ruolo ho dovuto dimostrare di conseguire un ottimo risultato elettorale, quindi all'interno del gruppo poi è stata una scelta ricaduta sia su naturalmente una questione di affermazione, sia naturalmente un placet all'interno del gruppo stesso. Lei si è caratterizzata anche per una serie per una comunicazione molto diretta, qualcuno dice un po' da maschiaccio. È una strategia o è così anche nella realtà? Guardi, io penso che nessuno di noi debba nascondere quello che realmente è. Questo vale nell'ambiente lavorativo e vale in quella che è l'agire politico. Io è vero, sono probabilmente insomma irruenta, però credo che sia una mia forma caratteriale. Ho fatto politica attiva da molti anni, anche in quartieri piuttosto vivaci, e probabilmente questo mio tratto caratterizzante me lo porto da quelle esperienze, ma non intendo su questo retrocedere, fa parte di me, quindi è il pacchetto completo. La Raggi, prima sindaca donna di Roma, paga il fatto di essere donna nell'essere, diciamo, stata attaccata con una certa veemenza, oppure se fosse, se avesse fatto la stessa cosa, le stesse cose che sta facendo, o alcuni dicono non sta facendo, sarebbe stata attaccata comunque. Guardi, anche io da uomo. Ho avuto, personalmente ho avuto un garbo particolare, non solo perché il sindaco Raggi aveva vinto le elezioni con un risultato schiacciante, ma anche in virtù del suo essere donna. La prima donna che ricopre una carica del genere, secondo me, proprio perché io sono una donna, merita un rispetto particolare. È evidente che però poi la valutazione che si dà è su quello che è l'agire politico, su come viene governata una città, e quindi sicuramente non possiamo fare una discriminazione inversa, quindi non criticare o non provare a mettere dei correttivi rispetto a quella che è l'azione amministrativa, perché abbiamo davanti una donna, perché poi quando si decidono di ricoprire i ruoli bisogna farsi il ruolo carico che si ricopre, poi certo. Si è sindaco, al di là anche della declinazione ai sostantivi che vogliamo dare, sei il primo cittadino della capitale, uomo o donna che tu sia, sei tenuto a governare bene questa città, e i nostri attacchi o le nostre critiche o le nostre proposte sono state sempre rivolte a questo, di certo non al genere del sindaco. Lo avremmo fatto, lo farei anche se si trattasse di un uomo, anzi forse io sarei meno garbata a proposito dell'aspetto caratteriale. Insomma, non risparmiamo nulla neanche agli assessori maschi della giunta del sindaco Raggi. Senta Michela Di Biase, che cosa succederà? Facciamo una previsione tra il ministro Calenda e la sindaca Raggi, il tavolo è stato oggetto di polemiche, no? Sì, sì. Io penso questo, che la proposta lanciata dal ministro Calenda sia una grandissima opportunità, non di visibilità per il sindaco, ma una grandissima opportunità per questa città, che è una città allo stremo e che ha bisogno delle energie e delle forze di tutti per essere governata. Quando dico delle forze di tutti, vuol dire che anche il Partito Democratico rispetto a questo vuole portare a quel tavolo le sue proposte. Quindi per noi il 17 è una data utilissima, per noi quella è un'opportunità straordinaria che non va colta e che non va sprecata, e anzi noi dobbiamo, a mio avviso, avere su questa questione la capacità di andare anche al di là delle appartenenze politiche, perché Roma è una città davvero che ha bisogno dell'impegno di tutti per essere governata, per uscire dallo stallo in cui ahimè si trova. Quindi noi cogliamo con assoluto interesse e una grandissima voglia di metterci in gioco quella data e l'opportunità che ci viene data. Mi sembra un ottimo segnale da parte del governo nazionale. A proposito di governo, lei, lo sanno tutti, è la moglie di Dario Franceschini, il ministro della cultura. Come, diciamo, capacità di comunicare, è più brava lei o è più bravo lui? Chi dà consigli all'altro? Ah, guardi, noi sembrerà strano, ma non siamo nel poco tempo in cui riusciamo a stare insieme, non ci diamo consigli su questo, siamo molto proiettati sulla bambina e sul viverci pochi momenti di intimità, quindi su questo non saprei sulla comunicazione non vi date consigli. No, diciamo che abbiamo forse proprio due stili completamente diversi, e abbiamo caratteri diversi e forse stili diversi anche nell'approcciare, ecco, la nostra figura esterna, questo sicuramente. Ma il libro, non ci siamo mai confrontati. Il libro di suo marito, lei l'ha letto, il libro appena pubblicato? L'ho letto, penso che sia forse il libro che maggiormente somiglia a Dario, ci sono dei racconti che io amo molto, quindi mi ha fatto piacere leggerlo, un po' di leggerezza serve specie a chi fa politica. Qual è il suo momento di leggerezza, come diciamo prende degli spazi per sé? Sicuramente Irene. Sua figlia? Mia figlia rappresenta per me il momento di maggiore calma durante la giornata, a volte mi sembra anzi di quasi di destabilizzarla, perché magari uno arriva a casa, è pieno di pensieri, è pieno di cose che gli girano in testa, ed è come se noi in qualche modo traessimo di lei energie, e quindi sembra quasi che è una bimba simpatica, 2 anni e 4 mesi. E vi trasmette molto. Una bella tempra, una bella tempra. Allora facciamo un gioco, Michela Di Biase. Nel prossimo futuro lei si vede di più candidata in Parlamento o sindaco di Roma? Io nel prossimo futuro, visto che parliamo di prossimo futuro, mi vedo come un battagliero capo dell'opposizione in Campidoglio, perché i cittadini mi hanno chiamato a fare questo, e quindi sarebbe, secondo me, nessuno, io questo l'ho consigliato anche al sindaco Raggi, nessuno si dà i voti da solo. Io penso che siano qualsiasi poi strada uno decida di percorrere, arriva sempre col tempo e arriva anche col sostegno degli altri, quindi io non sarei assolutamente in grado di autopromuovermi rispetto a quello che faccio. Quello che posso dire è che io questa città la amo molto, la conosco bene, faccio politica da 15 anni e sempre nella città di Roma, e che penso che veramente i miei sforzi debbano continuare ad andare in questa direzione. E anche continuare per i prossimi, 25-30? Finché ho l'energia e la voglia di farlo, perché io penso di riuscire a investire nel cambiamento, ma penso che tutte le donne riescano a investire nel cambiamento quando sono motivate e hanno voglia di farlo. Adesso io ho tanta energia da dedicare alla politica, per la verità non mi sono mai venute meno da quando ho iniziato, da quando già al liceo battagliavo come tante durante le autogestioni, no? Perché poi la passione politica nasce sempre così. Vediamo, lei dice se tra 15 anni ci sarà ancora. Ma certo che sì, ma questo penso che valga per ognuno. Si fanno le cose finché si ha l'energia e finché si riesce a farle nel migliore dei modi. Io non sono in grado di dire che cosa farò da qui ai prossimi 15 anni, sono in grado di dire però che quello che faccio adesso mi piace, e sono convinta che l'agire di ognuno di noi può migliorare la società in cui viviamo, quindi adesso sono davvero contenta di fare quello che faccio. Certo, avrei preferito farlo da una postazione di maggioranza in Assemblea Capitolina, perché sicuramente avremmo potuto incidere meglio nel cambiamento, però è un ruolo importante. Io incontro tante persone che mi sollecitano a continuare in questa battaglia per Roma, quindi penso che sia giusto che tutti noi, siamo un gruppo di 8 persone, che tutti noi diamo il nostro contributo, assolutamente sì. Grazie a Michela Di Biasi, capo dell'opposizione in Campidoglio, e buona domenica. Grazie. Buona domenica, grazie a tutti. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è Perfetta. Continuiamo a parlare della incapacità, perché di questo si tratta, e dobbiamo essere onesti con noi stessi prima di tutto. Incapacità di autopromuoversi o semplicemente di comunicare quel che si è da parte delle donne. Siete d'accordo? Scriveteci a nessunaeperfetta@radio24.it e commentate con noi su Twitter e su Facebook. Ma se c'è una donna che di tendenze, di sentiment si intende più di ogni altra, questa è Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Bentornata qui a Nessuna è Perfetta. Intanto riflettiamo su un dato, no? Alessandra Ghisleri, stiamo per entrare, forse non ne siamo mai usciti, in campagna elettorale, e a parte Giorgia Meloni, in Italia non c'è nessun'altra figura forte, di leader, e tantomeno si parla di una donna candidata premier. Sì, certo, Emma Bonino è tornata in auge col movimento Ero Straniero, però appunto non si tratta certamente di un nome ignoto alla gran parte degli elettori italiani. Non è un dato solo italiano, anche in Francia il nome unico forte era quello di Marine Le Pen. Come mai? Ma intanto il titolo della trasmissione è calzapennello, perché nessuna è perfetta. Sicuramente noi donne abbiamo un approccio prevalentemente passivo, cioè generiamo a farci degli stereotipi incredibili negli altri e a vederci sempre meno, come dire, in una visione non egoistica, meno preparate perché non mancano le donne forti, non mancano le donne capaci, non mancano le donne in grado di ricoprire ruoli importanti, e la storia nostra è piena, no, di eroine e situazioni, perché poi se noi pensiamo anche a quali potrebbero essere i risvolti italiani di avere una donna, no, come punto di riferimento, potremmo pensare anche a quello che diceva Virginia Woolf, che diceva che gli anonimi saranno sicuramente prevalentemente donne, cioè ogni donna dovrebbe sviluppare almeno il 50% del suo tempo per autopromuoversi. Ma non lo sappiamo fare. Ecco, Alessandra Ghisleri, che di sondaggi si occupa ormai da decenni, quante volte avete testato con Euromedia Research una donna come potenziale leader di un movimento? Allora, testata come leader di un movimento non così tante volte come quanti sono gli uomini, no? Ecco, che hanno prevalso. Questo non mi stupisce. Quello sicuro, però abbiamo avuto delle forti, diciamo, personalità di riferimento, ma è come se da un lato mancasse l'autostima e anche la capacità di rendere efficace quello che è il nostro lavoro. Pensiamo alle grandi manager internazionali che tutti gli anni compaiono nelle classifiche di Forbes, e ci rendiamo conto che oggettivamente ci sono delle donne capaci e sono anche nel nostro paese. Però me ne vengono in mente due italiane, Marina Berlusconi e Orlella Barra. Pare che nessuna delle due abbia la minima intenzione di fare politica, è così? No, sì, ma forse proprio per anche una volontà di non avere un confronto così negativo proprio col desiderio di autopromuoversi. È come se la donna fosse meno propensa all'autoaffermazione, alla ricerca del potere, perché il suo io genera delle spinte che vanno in contrapposizione alla società che desidera giudicarla. Pensiamo alla Fornero. Sì. No? La sua riforma è stato un lungo dibattito, chi dice che va abolita. In questi ultimi giorni addirittura è stata quasi, tra virgolette, rivalutata in determinate posizioni, perché se pensiamo... Se non altro ha avuto coraggio, se non altro non si è nascosta dietro una foglia di fico. Allora, è una donna di coraggio, quindi non ha avuto di una disapprovazione sociale e di un giudizio negativo. Forse noi donne che cresciamo in una cultura che ci accompagna da quando siamo bambine, che è cambiata, evoluta, ma comunque ci mantiene molto più sensibili a certe situazioni. Pensiamo anche agli insulti del web, no? Questa presentatrice... le donne sono soprattutto, sono la maggior parte delle vittime dell'odio da web, no? È molto meno forte per gli uomini che per le donne. Infatti, cioè proprio, pensiamo anche quello, cioè, perché tutta la letteratura psicologica ci ha testimoniato che le donne... è come se fossero più propense a soffrire di una bassa autostima, quindi di avere dei dubbi sul proprio valore. Eppure, e questo viene percepito anche da chi frequenta i social media, e quindi dici: se io attacco una donna, tanto non mi succede niente. E questo no, è il punto, perché no? Perché se noi facciamo un sorriso oppure ci mostriamo diversi, allora c'è subito il giudizio, forse siamo più sensibili, mentre il maschio ha una reazione differente, dettata anche da questa, da un retaggio culturale completamente diverso e proprio una crescita completamente diverso, perché contrattano meno degli uomini le donne nella vita professionale, eppure nella vita privata si contratta con i figli, si contratta con il lavoro, si contratta con la scuola, si contratta certo. con i medici, solo che è come se fosse un'esperienza che non porta curriculum vitae. Alessandra Ghisleri, in questa campagna elettorale che ormai si può dire cominciata, c'è, a parte Giorgia Meloni, Forse Michela Vittoria Brambilla che ha dato vita a un partito nuovo, quello del pro animali. Ma le viene in mente una figura femminile che potrebbe essere, come dire, un'immagine ricorrente nella campagna elettorale? No, perché a parte quelle citate, no, abbiamo ad esempio, mi viene in mente il caso del partito animalista, no, dove una Michela Vittoria Brambilla ha dato, come dire, sfogo e libertà a una sua passione, e quindi anche trovando delle persone che desiderano soddisfare il voto in quella direzione. Però come leader e come proposte per la direzione, ma pensiamo anche all'Europa, no? Abbiamo avuto delle rappresentanti importanti, eppure sono sempre maschili i punti di riferimento. È come se con il passare del tempo si incamera uno sviluppo, un'evoluzione, ma non riusciamo ancora ad autopromuoverci per quello che siamo. Un po' perché pensiamo sempre, ma dopo tutto non vogliamo disturbare, ecco, è come se fosse una forma di egoismo. Forse anche perché, avendo la capacità di poter essere madri, pensiamo che possa essere una forma di egoismo troppo importante quella di autopromuoverci. Anche questo potrebbe essere un contributo importante. E se non altro anche nella psicologia dell'essere uomo, donna, nelle evoluzioni viene citata proprio in questa direzione. Una donna in politica e non solo, no? Che fa un percorso di autopromozione viene vista come una cinica, spietata carrierista. Un uomo che fa la stessa cosa viene visto come uno che fa il suo lavoro. Sì, e poi piace anche di più, no? L'uomo che anche un pochino si pavoneggia, che anche sbruffone, che anche il non curante, se pensiamo anche, sempre riferito al campo politico, se pensiamo anche ad alcune campagne elettorali, abbiamo avuto dei candidati che si sono proposti come io, no? Sì. Come io al centro della società. Ecco, la donna invece, pur essendo al centro del sistema famiglia, del sistema lavoro, in molte situazioni non riesce a essere al centro del suo io, e quindi di poterlo, non sempre, perché poi ci sono delle casistiche. Abbiamo citato prima la Marine Le Pen. Però per cui, posso chiedere a Alessandra Ghisleri perché in Europa, concentriamoci su questo, le donne trovano spazio di leadership solo nei movimenti alternativi di destra o conservatori? Angela Merkel è del partito conservatore, è una democristiana, non si può certo definire una donna di destra, ma è sicuramente una conservatrice. Theresa May è del partito dei Tory, è conservatrice, come fu conservatrice sicuramente Margaret Thatcher. Marine Le Pen è la destra francese, così come Alice Weidel dell'Alternative für Deutschland. Perché, secondo lei, che analizza molto i partiti, per le donne leader c'è spazio solo a destra? In Italia, Giorgia Meloni. Ma perché, intanto, perché è difficile, perché tutte queste donne che abbiamo citato hanno sempre avuto un padrino, un padre storico, mentre invece è più raro far emergere i padrini storici degli uomini. E questo è già un fatto che nei partiti di opposizione legati alle forze nascite, che hanno una rivoluzione interna, che presentano delle situazioni nuove, si possa più affermare più facilmente una donna, proprio perché essendo una novità. E poi dall'altra invece c'è il fatto che nell'apparato politico le donne hanno anche la difficoltà di combattere con il proprio physique du rôle, no? Pensiamo alle bellissime donne che abbiamo avuto con incarichi istituzionali importanti, come sempre la battuta o la situazione sul web cadeva sul lato fisico e meno sul lato dei risultati o della programmazione politica. E sicuramente questo non avvantaggia e ci pone in una posizione di difficoltà nel dover difendere noi stesse e quindi di poterci autopromuovere. Esattamente, cioè di sì. Io sono molto grata ad Alessandra Ghisleri perché questo spazio radiofonico su Radio 24, direi che è l'unico che approfondisce questi temi, oggi ci dà la possibilità, lo dico anche come cittadine, no? Di valutare in forma, diciamo, spero, credo, obiettiva, come veniamo spesso bombardate da concetti che pensiamo essere così opinione comune, che invece sono spesso frutto dei pregiudizi. Questa non è una trasmissione femminista, è una trasmissione che parla alle donne, che è tutt'altra cosa, però ci sono un sacco di messaggi manipolatori e contro le donne, e non è femminismo notarlo, è realismo, no? No, certo, è un realismo, perché è come se tra le donne fosse radicata la convinzione che se noi svolgiamo bene il nostro lavoro è un nostro dovere, e forse è giusto così, e non è né giusto né cattivo, nel senso che comunque anche nell'evoluzione dei lavori abbiamo preso posti maschili, ci siamo mosse al di là del mito della famiglia e del focolare, ma forse dobbiamo riuscire a superare quella frase che è un po' come il mito della principessa, no? Se sono brava abbastanza la gente lo verrà a sapere comunque. Forse dovremmo essere invece così sfrontate, quasi da sembrare arroganti, però è ancora no, difficile. Ma senza sembrare arroganti, semplicemente raccontarsi per quello che siamo e che facciamo. Del resto, ecco, gli uomini sanno farlo benissimo e potremmo imparare da loro. Grazie ad Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, e buona domenica. Nessuna è perfetta. Bentornati, ultima parte di Nessuna è perfetta, è il momento attesissimo della nostra coach, dei consigli pratici che oggi sono dedicati a come ci si autopromuove, che non vuol dire si sgomita, esattamente il contrario, sul posto di lavoro. Buona domenica, bentornata a Carla Ciani, la nostra coach. Tre pillole per imparare ad autopromuoversi sul lavoro. Per autopromuoversi e per promuoversi, la prima cosa che dobbiamo apprendere è come comunicarci. Quindi la prima pillola riguarda davvero la nostra capacità di esprimere il nostro valore. Saper comunicare il proprio valore è una competenza. E per le donne è una competenza, direi, indispensabile, che va acquisita, migliorata e anche rafforzata con disciplina, perché per una serie di motivi infiniti le donne sono abituate a dare prove del loro valore, no? Prima di tutto, ricercando poi la conferma e l'approvazione, e si aspettano un riconoscimento che poi magari non arriva. E non arriva proprio perché la comunicazione non è stata esplicita. Primo, nella comunicazione servono anche dei simboli, no? Per esempio, una scrivania più grande o più piccola, le donne non ci fanno caso, gli uomini sì, ma attraverso i simboli passa anche la comunicazione della certificazione del proprio valore, è così? Certo, attraverso la comunicazione visiva passano molte più cose che, come si sa, attraverso la comunicazione verbale. A partire dalla cura, l'ordine nelle proprie cose, l'abbigliamento, l'accoglienza che viene dedicata agli ospiti all'interno del proprio luogo di lavoro. Ma anche come si viene trattati. Ripeto, la scrivania in un angolo piuttosto che in un altro ha il suo peso, no? Ha il suo peso, come il posto in una riunione. La donna purtroppo spesso attende di essere accolta in una riunione, e in ogni riunione, attorno ad ogni tavolo, il posto ha una sua importanza strategica, quindi devo dire che spesso è una responsabilità che devono avere anche le donne di scegliere adeguatamente la propria posizione attorno a un tavolo di riunione, per esempio, o di fronte a un interlocutore che ha magari un'autorità più alta della loro, no? A volte lo stare un po' troppo in piedi o il chiedere troppi permessi per accomodarsi ha a che fare con un modello che è perfetto in altre situazioni, ma non nel luogo di lavoro, per esempio. Il punto è che il valore si esprime con ogni modalità comunicativa e poi nell'ambito invece verbale dobbiamo davvero imparare a comunicarlo in modo oggettivo. Questa è la terza pillola. Come si comunica verbalmente? La consapevolezza del proprio valore, certamente non dicendo oh io sono la più brava, no, ecco, no, quindi no, no, come? Si comunica esprimendo nel modo più oggettivo possibile e nel contesto coerente, perché quando parliamo del nostro valore dobbiamo ricercare il contesto e il momento giusti e dobbiamo, come dire, attestare le nostre capacità sulla base dei risultati, le nostre competenze e soprattutto le nostre esperienze. Non dobbiamo, insomma, Maria, narrare la nostra biografia, ma dobbiamo fornire tutti quegli elementi distintivi che ci caratterizzano e che ci rendono, come dire, interessanti e attraenti per il contributo che siamo in grado di dare, insomma una specie di brand communication, come si dice nel marketing. E l'ultima cosa che vorrei chiedere a Carla Ciani, un errore che le donne tendono a commettere nell'autopromozione, quando magari cercano, non sapendo bene come fare, certe volte si strafà. Qual è un errore tipico? Allora, l'errore tipico sono due. L'enfasi, quindi mettere molta enfasi nei loro modelli comunicativi, e l'altro errore è l'uso del condizionale, cioè quando la donna per esempio deve comunicare le proprie aspirazioni, che sia un aumento di stipendio, un posizionamento più rilevante, usa un sacco di condizionali e spesso lascia gli altri, come dire, nell'assoluta incertezza, no, di aver compreso bene quali sono i reali obiettivi di quella donna. Quindi abbandoniamo se possibile il io vorrei, mi piacerebbe, credo di meritarmi, sarei felice, no? E invece alleniamoci a dire ritengo, oppure sulla base di quanto ho raggiunto, oppure voglio partecipare a questo progetto, insomma usiamo un bel presente e una buona determinazione. Perfetto, grazie Carla Ciani, queste pillole di uso comune spero che siano utili a tutte noi e anche a tutti noi, perché sull'autopromozione uomini, donne, giovani, insomma abbiamo tutti le nostre debacle. Buona domenica Carla Ciani, la nostra coach, e buona domenica a tutte buona voi che ci avete seguito.